È arrivato Milana Lino. Legge, commenta, spoglia, combattute piccanti. È arrivato Alino Milan, l'arrotino della comunicazione. 24 mattino. Eccoci, sono le 7:20 minuti in punto qui a Radio 24, dove siamo pronti con la rassegna stampa nello spazio di 24 mattino dedicato alla lettura dei giornali. Caro Peter Bescapè, ci siamo, siamo pronti, andiamo. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. È mercoledì 30 novembre, anche novembre volge ormai al termine, e allora le aperture, il Sole 24 Ore sulle borse, Milano corre con le banche, BTP tassi tornano sotto il 2%, questo è il titolo di prima pagina. L'Italia verso il voto, scambio di accuse con Mister Euro, è l'apertura del Corriere della Sera, la dura replica a Dijsselbloem che vuole più rigore da parte del governo italiano. Renzi poi va al Messaggero a fare un forum. Il sì non è un voto dato a me. Questo è il titolo di apertura del Messaggero. Mentre il giornale, niente crack se vince il no. Smentiti i profeti di sventura. L'accusa poi del manifesto che mette Schäuble, e cioè il ministro delle finanze tedesco, in prima pagina. Schäuble che ha detto io voterei Renzi. Alla berlina, questo è il titolo di prima pagina del manifesto. Il Fatto Quotidiano invece accusa Renzi, invia milioni di lettere e ce le fa spedire dall'uomo degli affari di papà. Vedremo di che si tratta. Anche La Verità in prima pagina dice mance elettorali, Renzi come bonus lei, ai giovani e ai docenti 500 euro, alle mamme 800, c'è anche il premio per chi compra un violino. Il premier a caccia di sì ha distribuito 12 miliardi a pioggia. L'apertura invece di altri quotidiani come Repubblica, gli amanti killer in ospedale, uccisi 4 pazienti e il marito, così gli amanti killer tornano in prima pagina del Giorno, anche della Stampa, e tra poco lo vedremo. Libero invece sceglie di mettere in prima pagina, e da qui parto anch'io, Buon sangue non mente, il titolo molto duro. La foto di Lapo El Khan, il nipote preferito dell'avvocato Agnelli, ci ricasca pieno di cocaina e dopo 2 giorni a New York con un trans finge di essere vittima di un sequestro per farsi dare 10.000 euro dalla famiglia. Ecco, Buon sangue non mente è il titolo. Ma comunque su tutti i giornali c'è questa vicenda con almeno 2 pagine, dico subito che nessun giornale è riuscito a sondare gli umori di Casa El Khan o a sentire, anche a strappare mezza battuta, a sapere anche dove si tratti esattamente, dove si trova in questo momento Lapo El Khan, secondo alcuni è già rientrato in Italia. Comunque Giuseppe Sarcina sul Corriere della Sera fa la cronaca più dettagliata e puntuale, a mio modo di vedere, a pagina 20, simula un sequestro, Lapo arrestato. La polizia di New York lo ha arrestato alle 2 di domenica mattina dopo 2 giorni di eccessi a base di alcol, cocaina e marijuana in compagnia di una trans. Poche ore dopo però Lapo El Khan poteva lasciare il 13° commissariato di Manhattan. Ha però in tasca un foglio pesante, un ordine di comparizione davanti al giudice Corte Criminale di New York. Udienza fissata al 25 gennaio 2017. L'accusa è denuncia alla polizia di falso sequestro. È un reato grave in America, nella categoria dei felony, prevede una pena dai 2 ai 10 anni di reclusione. Per il momento finisce qui il tumultuoso fine settimana organizzato dal 39enne nipote di Gianni Agnelli. Un portavoce del comando di polizia di New York conferma: lo abbiamo arrestato e poi rilasciato in giornata, non spettava a noi ritirargli il passaporto e quindi non l'abbiamo fatto. Ha solo l'obbligo di presentarsi davanti alla Corte Criminale di New York. Risulta al Corriere che non sarebbero stati attivati canali diplomatici. In conclusione, l'imprenditore della moda potrebbe essere già tornato in Italia. La vicenda ormai raccontata da tutti. Lapo arriva a New York il 24 novembre, giorno di Thanksgiving, in una città sonnolenta, gente tappata in casa, cerca compagnia e la trova in un escort transgender. Alla fine combina con Mary McKinstry, nome diffuso dalla polizia, dunque pubblicabile, transessuale di 29 anni. resta con Mary 2 giorni bevendo, fumando erba, sniffando cocaina. Poi alla fine servono contanti per comprare altre dosi e i pusher di Keep Bay non accettano carte di credito, anche se Gold, l'apo, chiede al suo ospite di anticipare. E poi ha un'idea: simulare il sequestro, chiamare qualcuno della famiglia, raccontare di essere in grave pericolo, farsi portare $10,000. Procede e si mette nei guai. Il Corriere cerca anche di raggiungere Mary McKinstry barricata in casa al terzo piano di un edificio dove, racconta Giuseppe Sarcina, bussando, risponde solo lo spaventato abbaiare di un cagnolino. E vabbè, la vicenda la trovate ovunque, eh? Ovunque, 2 pagine, giudizi, critiche, accuse, ognuno che dice la sua sulla vita di Lapo il Cane. Questa vicenda invece, questa vicenda incredibile di cronaca nera e sulla quale i giornali si soffermano molto con dettagli raccapriccianti, davvero mi ha sconvolto. È una vicenda peraltro non nuova, casi del genere si sono già verificati. In questo caso a Saronno, lei infermiera, lui medico anestesista, amanti, già definiti in realtà amanti killer, arrestati perché accusati di aver provocato la morte di 5 pazienti in ospedale. Siamo in provincia di Varese, in Lombardia. Il metodo usato, iniezione letale, avrebbero ucciso anche il marito di lei. Durante un'intercettazione l'infermiera addirittura confida all'amante: se vuoi uccido anche i miei figli. Come definire questa incredibile vicenda? Certo, non bisogna dare un giudizio prima di un eventuale processo, cioè di un processo che ci sarà sicuramente, ma le iniezioni letali degli amanti killer a pazienti e parenti. La persona arrestata è il dottor Leonardo Cazzaniga. Quando i carabinieri lo hanno arrestato, racconta il Corriere della Sera, pagina 2, la prima cosa che ha detto è che voleva andare al pronto soccorso a recuperare un'antologia di autori classici greci. Il medico anestesista per IPM è un camice bianco con un'anima nera, la vita poteva darla o toglierla. E infatti raccontano, a parte le intercettazioni, che secondo alcune testimonianze, secondo alcuni testimoni, si faceva chiamare Dio o l'angelo della morte in corsia. L'infermiere Paolo C., puntato, racconta che lo ripeteva spesso anche davanti agli ammalati: con questo paziente dispiego le mie ali dell'angelo della morte. L'operatrice sociosanitaria Ivana M. spiega ai carabinieri di Saronno di averlo sentito più volte pronunciare la frase «Io sono Dio» e che ai pazienti più gravi, spesso terminali, applicava quello che definiva il protocollo Cazzaniga, cioè dal suo cognome, che altro non era che un cocktail di farmaci per indurre la morte. Eutanasia la definisce il dottore al telefono con la sua amante. L'eutanasia è un'altra cosa, lo redarguisce la donna, è quando una persona lucida e cosciente ti chiede di porre fine alla sua vita. Allora, rispondeva il dottore, è omicidio volontario. L'angelo della morte, scrive il Corriere, ha ucciso il signor Angelo Lauria, 69 anni, malato di tumore, con una dose di propofol 5 volte superiore del normale. Giuseppe Pancrazio Vergani, 71 anni, Parkinson avanzato, con una dose di morfina 10 volte il consentito. E così è toccato a Luigia Lattuada, 77 anni, malata anche lei di tumore. E al signor Antonino Isgrò, 93 anni, è andato al pronto soccorso con un femore rotto e uscito in una cassa da morto. Ma i casi per i quali sono indagati sono almeno altri 10. Tra l'altro, l'accusa è di avere anche inventato in combutta queste 2 persone il diabete della moglie di lei, del marito di lei, il diabete finto, questa è l'accusa, ovviamente da provare, e poi curato in realtà per farlo morire. Le frasi shock di Laura a Leonardo: c'è anche questo, per te uccido anche i miei figli. Per carità, questo è tutto da provare, ma ora c'è anche la vicenda raccontata nel piccolo ospedale dove tutti sapevano, questo è il titolo della stampa, si vantava del suo protocollo fatale. Ma Vi do una buona notizia dopo queste due, insomma, eccolo qua. A Novara, sulla stampa, si raccontano i segreti della scuola Record, dove tutti i diplomati trovano lavoro. È l'istituto Omar e grazie a uno sportello interno, racconta Marcello Giordani a pagina 16, il 95% dei ragazzi viene assunto. È una tradizione straordinaria. Tutto lo sviluppo dell'industria tessile e meccanica del territorio, accompagnato anche da questi ragazzi che si sono diplomati qui e poi hanno trovato lavoro. È il racconto dell'Istituto Omar di come con l'efficienza da parte dei docenti, l'efficienza del programma di alternanza scuola-lavoro, poi porta ai risultati di trovare i posti di lavoro. Va bene, saltiamo invece al premio per l'articolo che mi fa più della giornata, è l'articolo Mani sul volante, è Carlo Bonini che oggi racconta questa storia molto complicata, molto intricata, anche dolorosa, del figlio di un partigiano che fu internato in un lager e che ha fatto causa alla Germania in virtù di una legge, chiede il risarcimento per il padre deportato dai nazisti, ma l'Italia si oppone. E si oppone perché? Perché, come racconta Carlo Bonini in questa intricata storia, lo fa su Repubblica, pagina 19, siamo un paese dove il cinismo zelante delle burocrazie, le cavillosità degli argomenti giuridici arrivano a concludere che la memoria, il risarcimento dovuti a un deportato nei campi di sterminio debbano essere sacrificati alla ragione di Stato, anche ai rapporti di amicizia tra Roma e Berlino. Perché è stata respinta dal Tribunale di Roma la richiesta del figlio di questo partigiano di essere risarcito per le sofferenze del padre, non in forza di argomenti, non, ma per questa singolare procedura burocratica. Il figlio, dopo 70 anni, non è stato in grado di dimostrare in che data e in che circostanza il padre sarebbe stato liberato e dunque quanto tempo sarebbe rimasto in stato di prigionia nel campo di sterminio, come se il campo di concentramento fosse una democratica galera, racconta Carlo Bonini. Dunque, non avendo potuto dimostrare quanto è stato il padre esattamente in un campo di sterminio, il risarcimento è respinto. Ma signora, ma che fa? Metta le mani sul volante, signora, ma andiamo, per cortesia. Alessandro Milan, il Barbudos dell'informazione. Hasta la notizia, sempre! Va bene. Beh, ma sempre originali i nostri ascoltatori. Allora, il referendum, mancano ormai 3-4 giorni, insomma, domenica si vota, fate voi i calcoli, io non ce la faccio a quest'ora. E da registrare alcuni articoli, dei tanti che ci sono sul referendum. Intanto rissa, lo scambio verbale molto duro tra Renzi e il presidente dell'Eurogruppo Dijsselbloem. Dijsselbloem, come raccontano Davide Colombo e Beda Romano sul Sole 24 Ore, pagina 8, ha preso le distanze dall'iniziativa comunitaria dicendo: occorre salvaguardare la credibilità del patto di stabilità e la Commissione europea ha una responsabilità cruciale. Tutti i bilanci devono procedere verso l'equilibrio. E quindi, parlando al Parlamento europeo, la proposta della Commissione europea di promuovere la spesa pubblica nei paesi in surplus o in pareggio di bilancio in modo da sostenere l'economia nella zona euro ha suscitato questa reazione a Dijsselbloem. Gli ha risposto a stretto giro Renzi: credo che Dijsselbloem non è consapevole di come vanno le cose in Italia. Se l'Europa vuole i soldi italiani deve cominciare a rispettare gli impegni. I leader europei parlino di questo invece di metter bocca su cose che non conosco. Insomma, il rapporto segna sempre gelo tra l'Italia e l'Europa in questo momento. Anche se in Europa, si guarda, ci sono polemiche per il sì del ministro tedesco Schäuble, che dice: voterei per Renzi. È il ministro delle finanze Wolfgang Schäuble che di fatto fa un endorsement per Renzi, che in qualche modo dice: contano gli italiani, forse prende un po' le distanze, non è molto contento di questo sì da parte di Schäuble. E comunque Questa è la reazione europea, mentre in Italia vi segnalo alcuni articoli interessanti. Il primo è un retroscena che è diffuso sia in un'intervista sul Giorno sia su Repubblica ed è questo. Attenzione, scrive Tommaso Ciriaco su Repubblica, dovesse vincere il no, dovesse esserci dei problemi per la continuazione del governo Renzi, è già pronta una pattuglia di un'ottantina, 100 deputati e senatori, definiti da Repubblica il partito del colle, che puntano alla continuità, cioè a sostenere il governo Renzi. E chi sono questi? Beh, sono capitanati da Dario Franceschini, consigliati da Francesco Garofani e Antonello Soro, sostenuti da Enrico Letta e Graziano Del Rio. Tra l'altro, aperta parentesi, il ministro Graziano Del Rio sarà nostro ospite alle 8.35, quindi glielo chiederemo. In una parola, per dirla con Pierluigi Castagnetti, sono i DC, la Democrazia Cristiana, un centinaio tra deputati e senatori pronti a spendersi per la continuità di questo governo, fedeli al motto Renzi dopo Renzi. Questo racconta Repubblica e Franceschini infatti fa un'intervista al Giorno. Non si vota sul governo, Renzi resti in ogni caso fino al 2018. Vedete che qualcosa c'è di concreto. Ettore Maria Colombo intervista al Ministro della Cultura. Sia se, come credo, vinca il sì, sia nell'ipotesi sciagurata che vinca il no, Renzi, secondo me, deve restare alla guida del governo fino alla scadenza naturale della legislatura. Così il ministro Franceschini. Mentre Bersani, sempre dalle colonne di Repubblica, intervistato a Goffredo De Marchis, dice basta allarmismi e parla soprattutto in questa lunga intervista di banche. E dice una frase che certamente suscita dibattito, perché dice basta allarmismi, questo Bersani, gli italiani votino in piena libertà e sulle banche il governo abbia la dignità di pronunciare una parola chiara e seria sul futuro, lasciando in pace malati di epatite C, risparmiatori. I malati non c'entrano nulla con la Costituzione, chiaro? E poi Renzi e Padoan dicano chiaramente che sulle banche è pronto un piano B, e cioè un intervento dello Stato? Proprio così, dice Bersani. Basta una frase. Quanto alla tutela del risparmio, siamo convinti del piano A, ovvero gli aumenti di capitale, ma in caso può intervenire la mano pubblica. Se serve, si fa, senza tante balle. Così Pierluigi Bersani, Renzi dica, le banche le salverà lo Stato. Per gli articoli interessanti relativi al referendum vi segnalo anche pagina 2 del Fatto. Stefano Feltri e Carlo Tecce si concentrano sui soldi spesi, non si sa quanti, per mandare il plico per il sì a tutti gli italiani o a molti italiani. Intanto chi le ha spedite? Le ha spedite? Tanto che il Fatto dice è un affare di famiglia, l'ex cliente di papà Renzi. La società si chiama Nexive, guidata da Luca Palermo, già primo cliente dell'azienda di Tiziano Renzi, uomo che il 15 ottobre 2015 ha fornito una testimonianza decisiva per far archiviare le accuse di bancarotta ai danni di papà Renzi. È lui che ha spedito, che è titolare di questa società, che ha spedito questi plichi, questo pieghevole di 4 pagine, presentato direttamente dal premier in conferenza stampa. Spedizione costosa, con tanto di indirizzo costa 28 centesimi e 50 più IVA, e secondo il Fatto Quotidiano ne sono stampate almeno 3 milioni. Insomma, chi paga tutto questo? La domanda il Fatto Quotidiano se la fa, senza dare ovviamente una risposta. Lettere del sì, un affare di famiglia a casa, le porta l'ex cliente di papà. Mentre per quel che riguarda la verità si concentra invece su un amico di Renzi, e vale a dire Oscar Farinetti, fondatore di Italy. Nuovo regalo dei compagni a Farinetti e la provvidenza PD. Un hotel da 200 camere dove era vietato verrà costruito a Bologna, racconta Alessia Pedrielli a pagina 9 della Verità. Il comune di Bologna ha cambiato gratis la destinazione d'uso di un terreno vicino al futuro parco giochi dell'alimentazione di Italy, così là dove gli scavi erano off limits l'amico di Renzi avrà l'albergo sperato. Questa almeno è l'accusa, poi con ricostruzione della Verità a pagina 9. E queste sono alcuni degli articoli, non tutti. C'è anche un'intervista al mitico Francesco Guccini che però dice: neanche sotto tortura dirò per chi voto e cosa voto domenica. Però alla domanda Renzi, cioè hanno che, il premier ha risposto che lei gli ha fatto sapere che preferisce non essere citato da lui, ma lei anche Alfano non vuole che lo citi, eppure è il cantante preferito sia di Renzi sia di Alfano, risponde Guccini, sono innocente. Preferisco Dino Zoff, che ha detto che preferisce i miei brani e che è un grandissimo portiere. Ma un altro fan di Francesco Guccini, notoriamente, non so se questo a grande cantautore di Pavana faccia molto piacere, è Mauro Meazza, si sa. Buongiorno caro Mauro. Buongiorno, buongiorno. Beh, certamente, beh, come non essere fan di Guccini, mi chiedo. Oggi tra l'altro è un giornatone, perché è il 30 novembre, come forse ti era già stato segnalato, e quindi c'è il pagamento degli acconti del secondo acconto IRPEF, IRES, quindi grande albo signando la pillo, dicevano i latini. No, giornatone perché appunto arriva questa scadenza, ma in previsione di un'altra scadenza, caro Alessandro. Oggi col Sole 24 Ore troverai un tabloid, uno speciale dedicato al saldo di IMU e TASI. Allora, la prima casa è esente, ma attenzione alle pertinenze. Fai attenzione alle pertinenze, perché con la seconda pertinenza è lì IMU, lì che incombe, che ti guarda fisso e potrebbe anche colpire la tua seconda pertinenza. Quindi è tutto spiegato nell'allegato al Sole 24 Ore di oggi. Naturalmente ti consiglierei, per quanto riguarda invece le dichiarazioni di Dieselbaum, di mostrare ai nostri ascoltatori la vignetta di Domenico Rosa, che è molto esplicativa. Secondo me, ecco, quella vignetta già dice tutto. Esattamente. E poi ti voglio dire, è arrivata la semplificazione per quanto riguarda i lavori in casa. Allora, ne parliamo con le varie sigle che arrivano, i lavori che si possono fare, la scia, sai cos'è la scia? Sì, che no, sì, la segnalazione chimica certificata di inizio attività, la CILA, perché c'è anche la CILA, o il CILA, adesso ho delle difficoltà a individuare il genere, e poi il permesso vero e proprio di costruire. Ne parliamo diffusamente nelle prime pagine del nostro giornale di oggi. Ti voglio invece dire che nelle pagine di norme e tributi troverai, io direi da staccare e conservare, il calendario delle nuove scadenze fiscali del 2017. Oh, giusto per sapere così. Allora, te lo puoi tenere, lo appendi magari lì in studio, ottimo, così quando io poi ti ricordo le scadenze fiscali non mi cadi un po' dal pero, come talvolta succede. Oggi, giornata, dillo tu l'avverbio, quella decisiva. Grazie, quell'aggettivo lì che non volevo dire io. Giornata decisiva per OPEC. Si decide forse un taglio di produzione del petrolio, chi lo sa, vedremo, leggi Sissi Bellomo o Inedita, e l'incontro governo-sindacati per il rinnovo del contratto degli statali, anche qui giornata, dillo tu. Decisiva. Oh, molto bene, vedremo. Da ultimo, articolo da meditazione, in imprese e territori, che tu leggerai scrupolosamente, come si conviene, vedrai che, ti racconta Carmine Fotina, nei comuni che sono interessati dai distretti industriali, soltanto il 17%, sono 2100 comuni, solo il 17% ha a disposizione un collegamento in banda larga, che può sostenere ad esempio l'e-commerce e il digitale in genere. Meditate gente, meditate. Nel frattempo, traffico! Alessandro Milan, se non c'era lui, c'era un altro. Questo è chiaro. Allora, purtroppo ieri è stata una giornata tragica per quel che riguarda il lavoro, perché ci sono tre operai morti al porto di Messina, uno è ferito ma in condizioni gravissime. Come racconta il Corriere della Sera con Felice Cavallaro, a pagina 23, si sono calati in sei e sono morti in tre operai deceduti sul lavoro, uccisi dalle esalazioni per pulire una cisterna di nafta nella pancia della Sansovino, nave che fa la spola da Lampedusa, anche per trasportare migranti e spesso bare. Stavolta, ferma al porto di Messina per riparazioni, si è trasformata nell'inferno che ha inghiottito le vite di Cristian Michalizzi, primo ufficiale, del secondo ufficiale di coperta di Lipari, Gaetano D'Ambra, e di un operaio arrivato da Terrasini, Santo Parisi, mentre c'è questo quarto, Ferdinando Puccio, in condizioni disperate. Salvi, invece, il comandante della nave, Salvatore Virzì, e il nostromo Nino Lombardo. Anche il manifesto dedica una pagina con l'articolo di Alfredo Marsala. Quattro operai morti, vengono definiti quattro sul manifesto, non tre, per esalazioni sul traghetto. Tra l'altro rimango sul manifesto, andando a pagina 5, a pagina successiva, perché c'è un interessante articolo che vi segnalo, riguarda Uber e la Corte dell'Unione Europea e una decisione che per la verità non arriverà prima di marzo, racconta Roberto Ciccarelli, ma che è importante per stabilire che cosa. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea deciderà se Uber è un'azienda di trasporto taxi o una piattaforma digitale. Questa richiesta di chiarimento decisivo per il futuro del capitalismo di piattaforma in Europa è arrivata da un giudice di Barcellona che il 7 agosto 2015 ha rinviato la decisione ai giudici di Lussemburgo dopo un esposto dell'associazione spagnola Taxi Elite contro Uber. Il giudice spagnolo ha chiesto alla Corte se l'attività di intermediazione tra il proprietario di un veicolo e la persona che deve effettuare spostamenti all'interno di una città, attività che Uber svolge con fini di lucro, e attraverso la gestione di mezzi informatici, interfacce, applicazioni di programmi, se debba essere considerata una mera attività di trasporto, un servizio elettronico di intermediazione o un servizio della società dell'informazione. In base a questa sentenza, cioè se la Corte deciderà per esempio che Uber è un servizio di trasporto, la multinazionale, che vale oltre 60 miliardi di dollari, dovrà rispettare la legislazione sul lavoro e sulla sicurezza e conformarsi alle regole delle attività di compagnie cooperative di taxi. Se invece i giudici europei definiranno Uber come una società di servizi di informazione oppure una piattaforma digitale che permette solo incontro tra domanda di potenziali passeggeri e offerta, allora l'azienda potrà tornare alla carica col servizio Uber Pop, quello che permette a chiunque di usare la propria macchina e lavorare come imprenditore di se stesso. Quel manifesto racconta questa cosa interessante, ovviamente ci si porta avanti, la decisione verrà presa più avanti in base a questa richiesta da Barcellona, ma sarà una sentenza molto molto importante che impatterà sulle vite anche degli italiani, chiaramente. A proposito di italiani, c'è questo giallo di un italiano che è apparso dicendosi prigioniero in Siria da 7 mesi, Sergio Zanotti, 56 anni, imprenditore di Marone nel Bresciano. Certo, tutti i giornali raccontano di un giallo, di richieste strane, dei dubbi dell'intelligence, per esempio anche lo scenario del rapimento di questo video. Non le immagini di sfondo del deserto della Siria, ma un giardino con degli alberi. C'è anche un po' un mistero su questa figura. Tutti lo definiscono un sequestro anomalo. Certo, se è così, vuol dire che da 7 mesi è in mano a qualcuno in Siria e va aiutato. Se non è così, i giornali raccontano davvero di qualcosa che potrebbe essere misterioso, anche qualcuno fa capire un sequestro, un finto sequestro inscenato. Però la vicenda ovviamente è raccontata dai giornali e da seguire nei prossimi giorni. Va bene, siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato su tutti i giornali, a mio insindacabile giudizio, è una pagina intera, Federico Pontigia sul Fatto Quotidiano, dedicata al cinepanettone di Natale. Anche quest'anno non ne ho mai visto uno, mai, forse qualche scampolo su Sky così ogni tanto girando, mai visto. Anche quest'anno il Natale tutto Rutti e Peti è in arrivo. Ma chi se ne frega!